Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Stiamo parlando degli stipendi, dei bonus, dei manager, in primo luogo americani, ma non solo, visto che il problema riguarda anche la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e comunque se n'è dibattuto anche in Italia. Dicevo, dei manager delle banche che, passata la buriana, passata la festa, gabbato lo santo, si direbbe da noi, sono tornati o stanno tornando a distribuirsi bonus milionari, in alcuni casi anche miliardari. Le statistiche sono inquietanti, nel senso che Goldman Sachs, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, grande banca d'affari americana, quella meno toccata diciamo dal tsunami finanziario dello scorso settembre-ottobre, ha già accantonato, cioè messo da parte 6 miliardi di euro per bonus futuri. Goldman Sachs nel frattempo ha licenziato 4.700 persone. Se si va a vedere il compenso dell'amministratore delegato alle banche, i posti di lavoro persi dalla banca stessa, viene da così, da farsi cadere le braccia, perché Citigroup ha licenziato 75.000 persone, ma nel 2008 l'amministratore delegato ha guadagnato 38 milioni di euro. Bank of America 36.000 licenziamenti, 9 milioni di euro per il numero 1. JP Morgan 15.000 licenziamenti, 35 milioni di euro di dollari di guadagno per l'amministratore delegato. E potremmo continuare con American Express, 11.000 licenziamenti ma 42 milioni di dollari di stipendio al numero uno. E Goldman Sachs, l'abbiamo detta, Morgan Stanley 4.000 licenziamenti, 1.200.000 dollari di stipendio al numero uno. Wells Fargo 2.000 licenziamenti e 9 milioni di compenso nel 2008 all'amministratore delegato. Stanno tornando i vecchi vizi, e quindi non solo quelli di operare in maniera speculativa. Tra l'altro le banche americane stanno guadagnando moltissimo, o meglio i manager delle banche americane che hanno le cosiddette stock option, cioè hanno delle azioni come bonus, stanno guadagnando molto da quando, visto che i titoli si sono ripresi in borsa. Anche qui c'è un calcolo diffuso oggi dalle agenzie, la stima, poi bisognerà vedere come andranno i mercati, ma per ora i 5 top manager delle prime 10 istituzioni finanziarie americane avrebbero guadagnato 90 milioni di dollari solo come aumento del valore delle azioni. Nulla di male, ma insomma, intanto se ne occupato Sarkozy in Francia, Angela Merkel in Germania, Gordon Brown ha detto che andrà a vedere come andranno i conti delle banche e poi prenderà provvedimenti sugli stipendi dei manager. Oggi, e questo è il motivo della cronaca, è intervenuto sul tema anche il ministro Tremonti dal vertice Ecofin a Bruxelles, in cui si è discusso anche del prossimo vertice G20 a Pittsburgh, dove proprio il tema dei maxi compensi dei manager bancari, in primo luogo comunque della finanza, sarà oggetto della riunione del G20 in programma a fine mese. Ce n'è abbastanza, mi sembra, per dedicarci alla nostra apertura e capire che cosa sta succedendo o che cosa non è successo, visto che durante la parte più brutta della crisi si diceva adesso bisogna tappare la falla, poi prenderemo provvedimenti. La falla è stata, così sembra, tappata, ma i provvedimenti ancora non si sono visti. 349-238-6666 per i vostri sms. Poi parleremo di risanamento, ho trovato l'accordo tra le banche e quindi dovrebbe iniziare a intravedersi anche una soluzione per il gruppo guidato ex da Luigi Zunino, e parleremo anche dell'iniziativa di un gruppo bancario italiano, in questo caso Unicredito, con gli artigiani, un fondo di garanzie, un fondo di prestiti al mondo artigiano. E poi commenteremo nella seconda ora invece gli altri temi legati più alla crescita economica, alle prospettive emerse dal vertice Ecofin di oggi a Bruxelles. Le altre notizie in breve. Partiamo dal petrolio come sempre, anzi mercati, meno 0,80% oggi Milano, meglio fanno Parigi, meno 0,2% come Francoforte, Londra aperte meno lo 0,2% anch'essa, l'America è invariata in questo momento sul Dow Jones, euro sotto quota 1,43 a 1,425, petrolio in calo a $67.50 il barile. Riflessione di oggi, Monte dei Paschi perde il 3,7%, Prysmian il 3,5% come Pirelli, Fiat perde il 3,3% come Buzzi Unicem e il Banco Popolare, il 3% lo perde Steam Microelectronics, il 2,90% la Popolare di Milano, il 2,70% in Pregilo, il 2,6% calo di Intesa e di Fondiaria, Unipol e Talcementi meno 2,2%. Bene Eni più 1,3%, l'automatica più 1,3%, Mediobanca più 1% come Snam, Rete Gas, Parmalat più 0,80%, Campari più 0,7%, mezzo punto percentuale di rialzo per Terna e Telecom Italia. I dati di carattere macroeconomico. Allora, dall'America, secondo una prima stima, si tratterebbe di un sondaggio, attenzione, sarebbero stati persi nel mese di agosto molti più posti di lavoro rispetto alle attese, non 250.000 ma 298.000. Questa è la prima stima che ha visto anche rivedere al rialzo i posti di lavoro persi a luglio, da 360 a 371.000. Buono il tasso di produttività americano nel secondo trimestre dell'anno, più 6,6%, non buono invece il dato sugli ordinativi arrivati all'industria americana nel mese di luglio, più 1,3%, un dato praticamente di un punto percentuale almeno inferiore alle attese. L'estate sta finendo, ma l'estate ha portato buone notizie. Questa è l'opinione perlomeno del commissario europeo agli affari economico monetari Joaquín Almunia, che arrivando al Consiglio europeo, appunto ricordo oggi c'è stato anche il vertice Ecofin, ha detto l'estate ha portato buone notizie ma serve prudenza. La situazione della nostra economia presenta segnali positivi sia sul fronte del PIL nel secondo trimestre dell'anno sia riguardo i miglioramenti registrati dalla fiducia di imprese e consumatori. Allo stesso tempo non possiamo ignorare che ci sono molti problemi da affrontare, innanzitutto i dati sul mercato del lavoro o la situazione delle finanze pubbliche. Tutti questi elementi sono stati discussi così come gli aspetti che regolano il settore finanziario. Penso che il nostro attuale approccio sia caratterizzato da un forte impegno per evitare che sia il settore che le istituzioni finanziarie pensino che dopo questa crisi si possa tornare ad un contesto ordinario, come nel periodo precedente la crisi. Alcuni segnali indicano proprio che alcuni pensano che si possa tornare a quel tipo di atteggiamento e questo sarebbe possibile solo non introducendo nuove regole per le istituzioni finanziarie e per le agenzie di rating. Il nostro impegno è di non dimenticare l'esperienza di questa crisi, anche se le situazioni su alcuni mercati finanziari hanno dato segnali di miglioramento negli ultimi tempi. E anche il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ritiene che il peggio sia passato, non a caso il calo dell'economia europea, del PIL europeo nel secondo trimestre dell'anno è stato più un calo minore, meno 0,1% contro meno 0,5% del primo trimestre. Anche l'Italia ha avuto un calo inferiore, nel senso che nel primo trimestre abbiamo fatto un meno 2,7%, nel secondo trimestre meno 0,5%. E come ricorderete, nel secondo trimestre alcune grandi economie europee, la Francia e la Germania, hanno avuto il segno più 0,3 la Francia, più 0,3 la Germania, Spagna invece meno 1,1, Portogallo, Gran Bretagna meno 0,7, l'altra economia ad aver avuto il segno più è il Portogallo. E comunque il ministro dell'economia Tremonti oggi, commentando i dati Eurostat sull'andamento del PIL italiano, meno 0,5% nel secondo trimestre, ha detto stiamo meglio di tanti altri paesi europei. Intanto attesi per il peggio siamo molto meglio di tanti altri, e cioè guardi i dati di altri paesi che non è elegante citare, quindi diciamo che stiamo a metà. Secondo, io credo che un'analisi seria debba e possa essere fatta considerando come dire, dati di medio, di lungo periodo. E ne parleremo, ripeto, di quanto emesso, dello scenario emesso da Bruxelles alle 18.15. Ancora un paio di notizie prima di passare al tema dei manager bancari americani, ma non solo, che perdono il pelo ma non il vizio. C'è stato questo accordo tra Unicredit, Confartigianato, CNA e Casa Artigiani, Confcommercio, per il progetto SS Impresa Italia, visto che ci sono stime di 10.000 imprese che potrebbero essere salvate nei prossimi 6 mesi, imprese a rischio chiusura. Nel frattempo stanno uscendo le anticipazioni di un'intervista che la Presidente di Confindustria Marcegaglia ha rilasciato la settimana nel Panorama e che sarà in edicola domani o al più tardi venerdì. La compartecipazione agli utili per i dipendenti è un discorso un po' difficile e complicato, ha detto Emma Marcegaglia, che si è definita molto contraria alla cogestione. E poi ha invitato a un grande sforzo di responsabilità. A me sembra, aggiunto la Marcegaglia, che il governo alcune cose buone le stia facendo, citando la scuola, il taglio degli enti inutili, lo snellimento della burocrazia, la direzione giusta, ma si tratta di velocizzare e intensificare questi processi. Ultimissima notizia, perché è saltata, lo si è preso 10 minuti fa, la data del 14 settembre per la presentazione dell'istanza telematica che consente di ottenere il rimborso del 10% dell'IRAP pagata tra il 2004 e il 2007. E infatti l'invio della data di attivazione per le domande online non è ancora saputo di quanto è slittata, comunque sicuramente non sarà il 14 settembre. Andiamo avanti, e allora tornano a essere beccati con le mani nella marmellata i manager americani di banche. Non solo, il tema è così diffuso che ha visto impegnati nell'ordine non solo i vertici economici americani, ma anche i vertici politici inglesi, francesi, tedeschi e italiani. Sentiamo subito che cosa ha detto il ministro Tremonti proprio su quello che sarà il tema del tetto ai bonus, ai guadagni per i manager, di cui si discuterà al prossimo G20 di Pittsburgh. Scusatemi, Tremonti. Ci deve essere una regola anche per la remunerazione, per i compensi. Poi i meccanismi tecnici, come vengono presi, calcolati, eccetera. Beh, la filosofia di fondo è che non possono essere troppo annuali, troppo istantanei, esatto. Più lunghi sono, più modulati sono, in modo da evitare che l'avidità causi questo. La mia idea è che è un punto importante anche simbolicamente, che non basta questo. Servono regole più ampie, non solo. Non è che eviti la prossima crisi solo mettendo un plafond ai compensi dei banchieri. Insomma, ve lo ricordate il cestino del mitico amministratore delegato di Merrill Lynch, Jonathan Train? Aveva speso $1.200.000 per rifarsi l'arredamento dell'ufficio, $1.700 solo per il cestino della spazzatura. Molti di voi ricorderanno anche che Merrill Lynch, praticamente fallita lo scorso settembre, per salvarla i cittadini americani hanno speso $20 miliardi. Beh, mentre si discuteva il salvataggio, intanto Merrill Lynch pagava bonus ai suoi dipendenti per $4 miliardi. E poi il mitico, si fa per dire, Richard Fold, che ha fatto fallire Lehman Brothers, ma intanto ha incassato stipendi per $72 milioni. Potremmo andare avanti, l'abbiamo raccontata anche in questo modo la crisi finanziaria nei mesi scorsi, e uno può dire, vabbè, sono cose che sono esplose durante la crisi, che hanno portato a questa crisi, adesso non capitano più. Insomma, i 5 top manager delle prime 10 istituzioni finanziarie americane hanno guadagnato $90 milioni negli ultimi settimane dal rialzo del valore azionario. Tra l'altro, mentre i manager continuano a ricevere bonus milionari, hanno effettuato, tutte prese le istituzioni finanziarie americane, 160.000 licenziamenti. Pensate che gli amministratori delegati delle prime 10 società finanziarie in America ricevono stipendi che sono 85 volte più alti di chi li deve controllare, come la SEC, che è la Consob americana, o il Fair Deposit Insurance Corp. E poi Andrew Cuomo, procuratore di New York, si è accorto che anche nel 2008, nonostante le perdite, il rischio crack, i salvataggi, continuavano le banche a distribuire bonus. Citigroup perdeva 28 miliardi, aveva ricevuto 45 miliardi di aiuti e nel frattempo, ce ne siamo accorti adesso, distribuiva 5 miliardi e 3 di bonus, chissà bonus di che. Premi a 6 cifre anche per i dirigenti di JP Morgan, Merrill Lynch, perfino AIG, che è tecnicamente fallita, ci sono voluti 180 miliardi pubblici per salvarla, ha continuato a pagare bonus milionari. E poi la mitica Goldman Sachs. Ora, Goldman Sachs non ha ricevuto molti aiuti, pochissimi, però ha messo già da parte per il 2009 6 miliardi e 600 milioni di dollari da distribuire come bonus ai suoi manager. Un po' mortificante, ma vogliamo farci del male oggi. Pensate, e lo ripeto, alcuni sono esterrefatti dai compensi. Li confermo: Citigroup 75.000 posti di lavoro tagliati, licenziati, e 38 milioni di dollari al suo amministratore delegato. JP Morgan 15.000 licenziamenti, 35 milioni di dollari in compenso all'amministratore delegato. American Express 11.000 posti di lavoro persi, 42 milioni di dollari di stipendio al numero 1. E Goldman Sachs 4.700 licenziamenti, 42 milioni di dollari di stipendio al numero 1. Tremonti ha citato un termine che sembrava un po' desueto, l'avidità. Per bloccare l'avidità non basterà questo, è sempre lì, gira e rigira, stiamo tornando. Marco Vitale, economista, autore di diversi libri, America punta capo, si parlava al tempo del crack Enron, tra i fondatori dell'Arthur Andersen Italia, buonasera. Buonasera. Avidità, avidità, avidità, vediamo chi si ricorda chi è questo. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Qualcuno l'ha già indovinato, Gordon Gekko, quando spiega agli assemblei degli azionisti l'importanza e il valore della verità. 1987, Wall Street di Oliver Stone. Allora, Marco Vitale, uscendo da ogni populismo, ma è mai possibile che siano passati, ci siano ancora i cadaveri bollenti e caldi dei disastri che hanno combinato le banche d'affari americane, poi ci sono anche quelle europee, sono preoccupati, lo ripeto per la terza volta, anche Francia, Germania, Gran Bretagna, e qui stanno già accantonando miliardi per i bonus? Sì. È possibile? Sì, sì, è possibile fino a quando non si affronterà questo tema nella visione propria che richiede. Tremonti ha detto non basta mettere i profondi, io sono d'accordo con lui. Bisogna affrontare il problema nella sua completezza e profondità. Io voglio ricordare che questo discorso l'abbiamo già fatto ampiamente nel 2002 e nel 2003, perché anche allora ci fu un'ondata di fallimenti gigantesca, non finanziaria prevalentemente, ma di servizi, Enron, WorldCom, eccetera, accompagnata da delle preghiere straordinarie e da degli scandalosi incassi di stock option 5 minuti prima del fallimento. Allora ci fu già un grande dibattito, fu formata addirittura una commissione presieduta da un grande personaggio come Volcker per studiare il problema, ma poi tutto si bloccò abbastanza rapidamente, nell'arco di un paio d'anni fu insabbiato. Perché fu insabbiato? Perché non si ebbe il coraggio di affrontare il tema, come non lo si ha anche oggi, nella prospettiva politica e di scontro sociale. Qui non è più l'avidità di uno, due, tre irresponsabili, ma siamo di fronte a uno squilibrio politico e sociale a favore del top management delle grandi società, che oggi è a focus soprattutto sulla finanza, ma non si limita alla finanza, che ha permesso allo stesso di appropriarsi di quei rispettivi che non hanno più alcuna relazione di alcun tipo con le prestazioni fornite, con i risultati raggiunti, con il tipo di attività, con l'andamento reale delle aziende. Sto leggendo parole che scrissi nel 2002. Questi valori non rappresentano più un corrispettivo per dei servizi professionali, ma un'appropriazione basata su una incontrollata posizione di potere. Con la casta dei CEO è necessario affrontare uno scontro come scontro sociale. Obama nei suoi discorsi aveva preso questo atteggiamento. Purtroppo Obama poi, per motivi che lui sa, ha dovuto affidare questa materia a tre persone che vengono da quel ceto, sì. E quindi è una speranza svanita. Ecco che allora non solo vediamo gli scandalosi comportamenti che lei ha detto, ma dobbiamo aspettarci una rivincita alla grande di questo ceto che è potentissimo e che se non trova qualcuno che lo scontra sul fronte culturale, politico, radicale, non ne usciremo mai. È un problema sociale, politico, di squilibrio straordinario di potere. Lei ha citato la casta faccio solo un esempio dei CEO, cioè la casta degli amministratori delegati. Pensi che in America siamo ancora in una posizione che sostenere che i compensi degli amministratori non vengano fissati dagli amministratori ma dall'assemblea dei soci è considerato un atto di rivoluzione socialista. Avendo voluto sostenere questo, Obama è stato accusato di socialismo. Ecco, siamo a questo punto. Ma a me andrebbe bene anche se lasciassero anche i lavoratori, anche i dipendenti di queste banche, stabilirsi da soli lo stipendio. Allora tutti si stabilirebbero lo stipendio, ognuno si stabilisce il suo, dall'amministratore legato al fattorino, e allora va bene, perché se no non si capisce. Tra l'altro vedo molti messaggi, quindi ci siete dei populisti, perché in realtà questi se non distribuissero i bonus i soldi andrebbero agli azionisti. Beh, intanto meglio gli azionisti o qualche euro dollaro in più agli azionisti che non tutta sta massa di milioni, permettetemi, miliardi a singoli manager. Ma il problema, se vogliamo capirlo, se ho ben capito il ragionamento di Marco Vitale, è che questi compensi sono ormai completamente scollegati dal risultato, come vi abbiamo dimostrato. Dalle prestazioni, dai valori, dal risultato, è una posizione di potere tipica delle aristocrazie di una volta. Infatti lei ha parlato di casta dei CEO, cioè amministratori delegati o presidenti dei consigli di amministrazione. Le chiedo l'iniziativa su questo. In America Obama, certo, ha preso Tim Geithner come ministro dell'economia, come segretario del tesoro. Tim Geithner ha una lunga esperienza proprio nelle banche d'affari, addirittura è venuto fuori un mezzo scandalo per una casa che gli aveva trovato un'importante banca d'affari. Vabbè, forse diciamo lui da quel mondo ha più difficoltà a distanziarsi rispetto ad altri. Ma in Europa, professor Vitale, c'è il tentativo, penso a Sarkozy, a Merkel, a Gordon Brown, oggi durissimo, ha detto prima guardiamo i risultati, poi decidiamo cosa fare, se prendere sanzioni, se intervenire sugli stipendi dei manager bancari. Potrebbe essere che la politica diventi il nemico di questa scarsa, se mi passa del termine, etica nella remunerazione dei top managers? Sì, assolutamente, ci vuole una risposta politica, perché qui non è solo la visita di questi personaggi, è un insieme di comportamenti politicamente e socialmente non accettabili e anche un insieme di regole che hanno permesso, favorito questi comportamenti, per esempio la bassa capitalizzazione delle banche e il permettere un rapporto di leva altissimo ha aumentato enormemente il ROE e quindi ha aumentato la pretesa di questi signori di essere compartecipi di un ROE fittiziamente elevato. Ecco che allora una politica che imposti un capitale delle banche molto serio e che freni l'abuso di certi strumenti utili ma che sono stati abusati è un altro tassello molto importante. La mia convinzione è purtroppo che Wall Street è talmente forte che Obama non riuscirà a combinare niente in America e che se questa volta ci sarà una leadership europea in questa materia, anche perché noi partiamo da degli ordinamenti societari più solidi di quelli americani. Noi considerare rivoluzionario che questi compensi vengano fissati dall'assemblea dei soci, siamo un pochino più avanti rispetto a questo punto. E una volta tanto appunto l'America non ci deve insegnare nulla, in questo caso in termini di quella che si chiama governance, quindi anche i compensi rientrano in questo. Sarkozy nel caso specifico ha detto, dopo aver strigliato i banchieri a fine agosto, ha detto, ottenendo un bonus, ottenendo di frenare tutti questi bonus che stanno ripartendo per chi opera in borsa, non solo per i top manager, avete ragione, ha detto introduciamo un sistema bonus malus, un po' come con l'assicurazione dell'auto, cioè tu partecipi ai guadagni ma partecipi anche alle perdite, la convince? Sì, sì, ma mi convince, filosoficamente mi convince. Io sarei anche di un'altra regola, per esempio, cominciamo a fissare un rendimento minimo sul capitale. Se uno ha in mano un capitale di 100 milioni di euro, un rendimento minimo di sto capitale non merita nessun premio, non merita nessuna partecipazione. Certo. Prendiamo un rendimento normale, qualunque lavoratore onesto che gli dai in mano 100.000 euro ti porta un frutto, il rendimento normale di quel capitale. Casomai sulla partecipazione pensiamo da quel livello in su. Comunque ci sono varie soluzioni che andranno a posto se noi abbiamo la forza di sostenere la tesi che così non è accettabile sul piano culturale, politico e sociale. E quindi non abbiamo paura di affrontare questo problema. Io leggevo oggi sul 24 Ore un bel articolo di Antonio Foglia, sì, che cita Lord Turner, attuale presidente della Consob, che dice parlare di queste cose è un diversivo populista. Non è vero. Parlare di queste cose è parlare di buona amministrazione, di buon management, di smantellare l'economia di carta. Questi bonus sono parte dell'economia di carta e quindi bloccare questo manifesto tentativo di riprendere a montare l'economia di carta o di panna montata. Panna montata, carta, poi carta che diventa tossica, sono cose che abbiamo già visto, o meglio, appartengono al passato recente. Grazie, anche se da quello che ho capito Marco Vitale, lei ritiene che dall'Europa, in questo caso l'asse franco-tedesco-britannico e anche italiano, perché Tremonti su questo è stato molto chiaro, l'abbiamo appena sentito oggi, al vertice Ecofin arriverà forse una spinta più grossa, non dall'amministrazione Obama, che in alcune sue parti è, diciamo, tutta troppo legata al milieu, all'ambiente quantomeno, fermiamoci qua, di Wall Street. Sono d'accordo con lei che, perché vedo alcuni che ci tacciano di populismo, che quando si parla di populismo su questi temi si fa melina. Secondo me, quando uno accusa chi critica questi stipendi assurdi a fronte di centinaia di migliaia di licenziamenti di populismo, usa un po' il tema del benaltrismo, il problema è sempre un altro, è ben altro. In realtà non si vuole parlare del tema, il tema c'è tutto, è inaccettabile che alcuni paghino tutto e alcuni paghino niente, anzi ci stiano di nuovo guadagnando tanto. Grazie Marco Vitale. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni per parlare adesso di borsa e poi anche di risanamento. Sembra chiusa la parte perlomeno finanziaria, la parte giudiziaria è tutto ancora da scriversi. Non possiamo continuare sul tema dei mega bonus. Certo è che quando si vede che le banche, Citigroup, Goldman, hanno macinato utili nel secondo trimestre dell'anno, nonostante le decine di miliardi di dollari di aiuti ricevuti, E che poi partono gli accantonamenti per i bonus, per i manager, super manager, top manager e quant'altro, beh, sospetto che non si sia imparato nulla, anzi si stia dando una mano di bianco all'intera vicenda per ripartire come se nulla fosse successo. Sospetto ce l'abbiamo e ce l'abbiamo forte. Meno 0,90% Milano, meno 0,3% Parigi, meno 0,1% Francoforte, meno 0,1% anche Londra, invariata l'America. Oggi Milano perde quasi un punto percentuale più della media europea. I motivi si chiamano Monte dei Paschi meno 3,80%, Banco Popolare meno 3,5% come Pirelli e come Fiat. Prismian ha perso il 3,3% come ST Microelectronics, il 3% è il calo di Buzzi, Unicem, Popolare di Milano e Impregilo, il 2,3% è il calo di Fondiaria, Italcementi e Intesa San Paolo, ma anche Geox. Fronte opposto, l'Automatica più 1,4%, Mediobanca più 1,3%, Eni più 1,2%, Parmat più 1%, come Snam 0,80%, Terna quanto rialzo e 0,3% è il rialzo di Campari. Euro a quota 1,42 sul dollaro, come sempre il commento con i colleghi di Radio Cor, il Sole 24 Ore, Livia Zancaner, bentornata. Grazie, buonasera. Milano la peggiore. Sì, allora Milano ha realizzato la peggiore performance oggi in Europa, anche se in realtà poi verso il finale di seduta Piazza Affari si è risollevata dai minimi, mentre da stamattina perdeva oltre un punto percentuale. A trenare al ribasso quindi il listino milanese sono state da una parte le banche, che hanno proseguito la correzione partita a inizio settimana dopo la comunicazione dei conti semestrali. Prima della comunicazione dei conti, infatti, le banche avevano guadagnato terreno facendo registrare ottime performance al listino milanese. Oltre alle banche, quindi, come dicevi tu prima, con MPS e il Banco Popolare a guidare le vendite, hanno pesato anche la performance di Pirelli e di Fiat in linea con il resto del comparto automobilistico europeo. Eh sì, perché oggi le flessioni sono state anche su altri titoli automobilistici. Tra l'altro qui c'è una notizia forte: il governo tedesco ha deciso di bloccare gli incentivi per il settore auto. Sì, infatti oggi il governo tedesco ha appunto deciso di non rinnovare gli ecoincentivi dopo l'esaurimento del budget da 5 miliardi di euro che era stato precedentemente messo a disposizione. Quindi questo ha penalizzato il comparto auto, che in Europa ha perso l'1,08%. Allora, secondo quanto previsto da uno studio di Roland Berger, però pubblicato già un paio di settimane fa, lo stop agli incentivi dovrebbe mettere a rischio circa 90.000 posti di lavoro in Germania. E poi bisogna ricordare anche che grazie appunto agli incentivi le immatricolazioni di nuovi veicoli in Germania sono aumentate del 28% circa ad agosto rispetto all'anno precedente. Comunque gli analisti stimano che ovviamente le vendite diminuiranno a seguito dopo lo stop agli ecoincentivi. E auguri a questo punto anche alla Opel, visto che lì c'è anche il fronte General Motors ancora poco chiaro nei rapporti con il governo tedesco. Andiamo avanti. Eni anch'essa sale perché c'è una notizia, anche in questo caso forte. Una notizia forte e un'ipotesi, diciamo, giornalistica. La notizia è la cessione del 45% di una licenza di esplorazione a Gas de France. L'ipotesi giornalistica, Livia, è quella sul Financial Times di oggi, che ipotizzano spin-off, cioè una separazione tra le attività del gas e quelle petrolio della società. Sì, infatti, secondo il Financial Times, appunto, lo spin-off potrebbe far emergere del valore per il gruppo italiano, e ne è convinta anche Equitasim, che è appunto la società italiana, mentre UBS ritiene che si tratti di un'analisi debole, dal momento che appunto gli analisti credono che difficilmente Eni otterrebbe un miglioramento dei multipli diventando oggetto di una scalata. Quindi su queste ipotesi ci sono comunque dei giudizi contrapposti. Inoltre, secondo altre indiscrezioni stampa, riprendendo quindi l'interesse da parte dei libici per la nostra società, per la società italiana, indiscrezioni stampa riportano che quando il prezzo del petrolio raggiungerà gli $85, allora la Libia, tramite il fondo, che al momento detiene meno del 2% dell'Eni, potrebbe salire fino al 5% per poi puntare al 10% come aveva dichiarato alla fine dello scorso anno, un'ipotesi che finora non si è ancora realizzata. E quindi notizie, dati di fatto e ipotesi che comunque vanno nella stessa direzione: il titolo guadagna l'1,2%, cioè nella stessa direzione, vale a dire far puntare gli acquisti su Eni. Mediobanca più 1,3%, l'automatica più 1,38%. L'automatica si sta un po' riprendendo dopo i cali delle ultime sedute, no? Sì, l'automatica si sta si è ripresa oggi dopo le perdite che hanno portato il titolo a cedere il 4,8% circa dalla chiusura del 25 agosto. Le vendite erano state innescate proprio dalla revisione al ribasso del giudizio da parte degli analisti di Kepler, appunto, che avevano abbassato il rating da buy a hold. Oggi il titolo ha beneficiato della pubblicazione di dati relativi al poker online. Il poker online infatti oggi ha festeggiato il primo anno di nascita, comunicando una raccolta record di 1,64 miliardi di euro, un dato che è decisamente superiore alle stime iniziali, che prevedevano che in 12 mesi la raccolta non avrebbe superato in realtà i 400 milioni di euro. Chissà se è un effetto della crisi che tutti si mettono a giocare al poker online. Cioè c'erano stime, le ricordiamo anche noi, da parte di Lottomatica, che diceva il poker online varrà un giro da 400 milioni di euro, hanno toccato in un anno 1 miliardo e 740 milioni di euro. Non male come tentativo di avere secondi stipendi. Andiamo avanti, anzi lo facciamo dopo le informazioni per chi è in viaggio, perché manca il settore bancario. Oggi, tranne Mediobanca, più 1,3%, tutto debole. Di nuovo in diretta, si diceva, Livia, le banche. Mediobanca positiva, le altre deboli, a partire dal Monte dei Paschi, che oggi ha perso più di altre, il 3,80%, ma anche Banco Popolare torna sui 6 euro per azione, meno 3,60%, Popolare di Milano meno 3%, si ferma a 5 euro per azione, Intesa meno 2,15% a 2,84 euro. Sì, allora l'andamento negativo delle banche ha già penalizzato in particolare Piazza Affari, infatti MPS e il Banco Popolare comunque hanno perso più del comparto bancario a livello europeo, che ha ceduto oltre l'1,7%. Sono partiti quindi i realizzi dopo la comunicazione dei conti semestrali, e prima della comunicazione dei risultati invece proprio l'andamento positivo delle banche è riuscito a sostenere il listino milanese. Si è mossa in controtendenza oggi solo Mediobanca, appunto, che ha guadagnato l'1,28% dopo le rassicurazioni che sono arrivate dai soci su un rinnovo sereno per quanto riguarda il patto di sindacato che scadrà a fine anno. Ieri infatti sono intervenuti sul tema del rinnovo del patto sia Marco Tronchetti Provera, che è vicepresidente di Mediobanca, e Vincent Bolloré, che è capofila dei soci esteri. Hanno sottolineato entrambi che all'orizzonte non ci sono problemi tra i soci, e comunque si sono detti fiduciosi su un possibile rinnovo. Grazie. Anzi, un'ultima cosa, Livia, risanamento, visto che adesso ne parliamo, come ha chiuso? Perché è arrivata a perdere oltre il 7% oggi. Sì, allora è arrivata a perdere oltre il 7% e alla fine ha migliorato leggermente, perdendo il 6,05%. Grazie definitivamente per oggi, chiaramente, a Livia Zancanelli, Radio Colle, Sole 24 Ore. Noi vi raccontiamo l'ultimo capitolo, non l'ultimo capitolo in ordine di tempo, perché ancora c'è tutta la vicenda giudiziaria davanti, del gruppo ex gestito da Luigi Zunino. Al di là del calo, alla fine meno 6% con fortissimi scambi, oggi tra l'altro il risanamento continua ad attendere la decisione della Consob. Non so se sia arrivata in questi minuti, chiedo conferma in regia, sull'esonero delle banche dal lancio di un'OPA obbligatoria sul titolo di risanamento. Ma dicevo, le banche creditrici hanno firmato il piano di salvataggio del gruppo immobiliare. Allora, metteranno 150 milioni di euro per l'aumento di capitale, daranno un prestito convertibile convertendo da 350 milioni, da quello che si è capito, e poi c'è tutto l'altro fronte, perché in tutto abbiamo fatto una stima che le banche metteranno un po' più di 800 milioni di euro. Laura Galvagni, Sole 24 Ore, la voce di risanamento, buonasera. Buonasera a voi. E così restano gli 800 milioni che tu ci raccontavi due giorni fa come sborso complessivo? Del piano di ristrutturazione di risanamento è sostanzialmente quella, ossia 500 milioni di aumento di capitale, in parte cash, in parte attraverso la conversione di crediti chirografari, e l'altra parte appunto 262 milioni per mettere in sicurezza il bond convertibili, 73 milioni per una fideiussione che liberi della cassa che c'è all'interno della società e 20 milioni invece che andranno alle holding per il momento ancora di Luigi Zunino. Poi si è parlato anche della possibilità che Zunino venga estromesso anche dalla gestione delle holding che attualmente hanno in mano il pacchetto di controllo di risanamento, ma questo è un capitolo che probabilmente verrà affrontato nei prossimi giorni. Ecco, quello che le banche non vogliono è essere obbligate dalla Consob a lanciare un'OPA sul risanamento, perché voglio dire, il 73% dell'azionariato di risanamento era in mano a Luigi Zunino, però il 19% era impegno in Intesa San Paolo e il 26% è Unicredito, quindi ce l'aveva in mano, ma tra virgolette potremmo dire ipotecato da qualcun altro. Quale sembra essere l'orientamento della Consob? Perché è chiaro che cambierebbe tutto lo scenario se fossero obbligate le banche creditrici a lanciare un'OPA su tutto il capitale di risanamento. Fattispecie specifica che è regolamentata proprio da un regolamento Consob, adesso non vorrei entrare proprio nel dettaglio tecnico, ma c'è un articolo del regolamento Consob che stabilisce che nei casi di salvataggio non esista l'obbligatorietà dell'OPA nel caso in cui comunque un soggetto venga a detenere una partecipazione superiore al 30%. Mm-hmm. Evidentemente le banche si rifanno a questa fattispecie del regolamento e hanno chiesto alla Consob l'esenzione dall'OPA. È evidente però che l'esenzione d'OPA da parte di Consob può avvenire solo nel momento in cui il piano esiste, ossia solo nel momento in cui il piano viene firmato da tutte le banche. Per cui a questo punto questo progetto verrà presentato in Consob, la Consob valuterà nei prossimi giorni e si presume che possa arrivare questo ok all'esenzione dell'OPA. Quindi dovrebbe da questo punto di vista non riservare brutte sorprese alle banche la decisione della Consob. La richiesta di fallimento, tra l'altro, attenzione, che ha fatto scattare la clausola che comporta l'esigibilità del prestito entro 60 giorni, questo riferito all'obbligazione da 220 milioni di euro con scadenza 2014, per cui entro il 14 settembre, se ho ben capito Laura, gli investitori potrebbero chiedere l'imborso? Ha detto che gli avvocati che stanno seguendo la vicenda risanamento sostengono o suppongono che nel momento in cui viene data l'esenzione dall'OPA, viene depositato il progetto di ristrutturazione in tribunale, di fatto ci sia una sorta di sospensione di questa clausola che può portare fino poi alla sentenza di fallimento. Nel momento in cui ci sarà la sentenza, poi a quel punto verrà stabilito se è effettivamente esigibile immediatamente il prestito obbligazionario oppure se con il mancato fallimento si può procedere tranquillamente. Anche per questo, come dire, le banche sono state costrette a predisporre questa linea di backup per mettere in garanzia il bond nel caso in cui invece non venisse di fatto reso già esigibile a partire dal 14 settembre. Un'ultima domanda: l'accordo che hanno trovato le banche oggi per rifinanziare il risanamento riguarda la società in sé o anche il miliardo di euro che è riconducibile alle holding di Luigi Zunino, cioè le società che stavano a monte? Allo Stato riguarda principalmente la società risanamento, poi c'è un dossier a parte che riguarda le holding e che verrà affrontato sicuramente, anche perché è evidente che venendo di fatto a mancare a Zunino quel pacchetto di controllo di risanamento, gli vengono anche a mancare le garanzie rispetto ai prestiti che aveva ricevuto. Perché non avendo più il controllo della società, le sue garanzie sono decisamente differenti rispetto a quelle che poteva vantare un paio d'anni fa. Quindi sicuramente il dossier holding dovrà essere affrontato. Cioè, detta con un po' di, non so se forzatura, ma diventano peggiore la qualità dei suoi debiti nelle holding perché non ha più sotto risanamento a fare da garanzia. Esattamente, ha un pacchetto di risanamento del 33% anziché del 73%, per cui la sua qualità di creditore è sicuramente, di debitore, scusami, è sicuramente peggiorata. Bene, o meglio, per ora va così. Grazie a Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Barisoni, lei non ha dato i migliori e i peggiori di borsa. Avete ragione, chiedo venia, cioè delle vestali del programma ogni tanto. Allora, i migliori e i peggiori. Mediterranee Acque più 6%, poca altro, Banca Carige più 3,2%, Landi più 2,7%. I peggiori, Group Minerali Maffei meno 7%, Alcatel Lucent Technologies meno 7,81%, titoli molto sottili, Banca Italease perde il 6,3%, investimenti e sviluppo il 6,2%. Adesso il nostro GR e poi questo accordo, questa piattaforma firmata tra il gruppo Unicredito e gli artigiani, la Confederazione Nazionale Artigiani, per dare una mano a oltre 10.000 imprese artigiane che rischiano di chiudere o di fallire per le difficoltà economiche, da un lato, e dall'altro le prospettive emerse dal vertice dei ministri economico-finanziari che si è tenuto oggi a Bruxelles. Ultima parte del programma, e allora di che si è discusso a Bruxelles? Ripeto, vedremo cosa uscirà dal G20, molti di voi vogliono sapere se si può pensare a tetti, a bonus malus. La bonus malus è una proposta francese di dire va bene, diamo i bonus ai manager, però diamogli anche il malus, se partecipano agli utili in più, alla crescita degli utili, ma partecipano anche ai cali. La Germania e la Francia sono i paesi più fortemente impegnati in questa battaglia, ripeto anche il ministro Tremonti, anzi risentiamo subito Tremonti sulla vicenda dei manager, così chi continua a porre domande diamo anche qualche spiegazione in più, perché il ministro Tremonti oggi in conferenza stampa ha detto va bene portare il tema e mettere dei paletti al G20 di Pittsburgh, però non sarà la soluzione definitiva, perché di mezzo c'è questo peccato capitale che Gordon Jekko ricordava bene nella prima parte del programma, ossia l'avidità. Ci deve essere una regola anche per la remunerazione, per i compensi. Poi i meccanismi tecnici, come vengono presi, calcolati, eccetera, beh, la filosofia di fondo è non possono essere troppo annuali, troppo istantanei, esatto. Più lunghi sono, più modulati sono, in modo da evitare che l'avidità causi questo. La mia idea è che è un punto importante anche simbolicamente, che non basta questo. Servono regole più ampie, non solo. Non è che eviti la prossima crisi solo mettendo un plafond ai compensi dei banchieri. Quindi una soluzione, oltre ai dei tetti, è anche legare queste remunerazioni a periodi di tempo molto lunghi, in modo che uno non possa fare politiche mordi e fuggi, politiche da squalo, quello che abbiamo visto succedere anche nel 2008 mentre saltavano per aria le banche americane, nel frattempo continuavano a distribuirsi a sé medesimi i vari manager bonus da decine e decine di milioni di dollari. Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Enrico, mi sembra, adesso veniamo alle prospettive economiche, che il preparatorio di Pittsburgh, oggi sempre il ministro Tremonti ha definito il prossimo vertice del G20 di Pittsburgh una specie di nuovo Bretton Woods, no? Quando si stabilì la fine della convertibilità dell'oro sul dollaro, ma il preparatorio di Pittsburgh oggi si sia concentrato su queste regole da mettere per i manager. Sì, su questo punto c'è stata una certa convergenza, sappiamo che erano gli inglesi quelli più refrattari a fissare delle vere e proprie regole, mentre, come detto giustamente, Francia e Germania spingono e l'Italia è sulla stessa linea, oppure con qualche cautela che abbiamo sentito i Tremonti. Va detto che c'è stata una convergenza, il presidente Borg dell'Ecofin ha sottolineato come ci sia comunque ormai una posizione comune dell'Europa sul fatto di porre dei limiti. Quali potrebbero essere, quali sono i punti su cui si sta aggregando il consenso? Diciamo, li ha illustrati bene il ministro francese Lagarde. Prima di tutto il fatto che non ci siano retribuzioni nei casi di andamento negativo dell'azienda o della banca. Secondo luogo, che qualora l'anno successivo o quello ancora dopo vi sono dei risultati negativi, anche in questo caso il bonus venga ridotto per evitare l'annualità, cioè il fatto che queste compensi siano legati e inducano a pensare troppo nel breve periodo. Poi si invoca più trasparenza su questi compensi e il fatto che poi chi non si uniformi a queste regole debba comunque essere sottoposto a delle sanzioni. Ecco, diciamo, questi a grandi linee dei punti di convergenza dell'Europa sul fatto appunto che questi bonus non stimolino atteggiamenti troppo speculativi di breve periodo che possono poi avere un effetto dannoso sull'andamento delle banche, sì, e delle imprese. E quindi su questo fronte la novità è l'allineamento anche della Gran Bretagna. Londra da sempre è stata molto scettica, vuoi che per tradizione anglosassone la City londinese pesa quanto il Wall Street in America, vuoi per una cultura in cui da sempre i bonus vengono utilizzati. Adesso però abbiamo visto proprio oggi dichiarazioni di Gordon Brown che ha detto: andremo a vedere i risultati delle banche e poi andremo a controllare quelli che sono gli stipendi dei manager, perché insomma l'Inghilterra ha dovuto salvare massicciamente grandi istituti di credito con i soldi dei contribuenti britannici. Le prospettive economiche, mi sembra che sia un coro di il peggio è passato, lo ha detto Jean-Claude Juncker che è presidente dell'Eurogruppo, lo ha ribadito Joaquín Almunia che è il commissario europeo agli affari economico-monetari. The situation of our economies with positive signals. La situazione della nostra economia presenta segnali positivi sia sul fronte del PIL nel secondo trimestre dell'anno, sia riguardo i miglioramenti registrati dalla fiducia di imprese e consumatori. Allo stesso tempo non possiamo ignorare che ci sono molti problemi da affrontare. Innanzitutto i dati sul mercato del lavoro o la situazione delle finanze pubbliche. Tutti questi elementi sono stati discussi, così come gli aspetti che regolano il settore finanziario. Penso che il nostro attuale approccio sia caratterizzato da un forte impegno per evitare che sia il settore che le istituzioni finanziarie pensino che dopo questa crisi si possa tornare ad un contesto ordinario, come nel periodo precedente la crisi. Alcuni segnali indicano proprio che alcuni pensano che si possa tornare a quel tipo di atteggiamento, e questo sarebbe possibile solo non introducendo nuove regole per le istituzioni finanziarie e per le agenzie di rating. Il nostro impegno è di non dimenticare l'esperienza di questa crisi, anche se le situazioni su alcuni mercati finanziari hanno dato segnali di miglioramento negli ultimi tempi. E allora Enrico Brivio, anche alla luce del dato diffuso oggi sul PIL europeo che è rallentato quanto a calo, ha fatto solo meno 0,1 nel secondo trimestre, mentre il trimestre precedente aveva fatto ben peggio, che cosa possiamo dire? Insomma, ci si appresta a gestire un'uscita probabilmente lenta, ma sicuramente un'uscita da questa crisi? Sì, con molta cautela, perché di exit strategy, cioè di ritorno a porre l'attenzione sulle finanze pubbliche, si comincia a parlare, ma la riflessione si dovrà svolgere durante l'autunno, insomma, perché come ha illustrato Almunia, c'è una situazione ancora molto, molto densa di ombre, in cui ci sono due aspetti, cioè alcuni segnali positivi che cominciano a emergere dall'economia reale, ma al tempo stesso una situazione del mercato del lavoro, come abbiamo visto dai dati record sulla disoccupazione di Eurolandia di ieri, che continua a essere molto preoccupante e che probabilmente peggiorerà ancora, visto l'effetto ritardato degli effetti dell'economia sull'occupazione. Per cui diciamo sì, c'è questa situazione ancora diciamo molto fragile, diciamo, in cui cominciano a emergere dei segni di ripresa, ma si comincerà a ritornare a parlare seriamente di rigore di bilancio, insomma, non prima dell'anno prossimo probabilmente. In autunno si avvierà comunque questa riflessione sull'exit strategy, sul modo di riportare gradualmente l'attenzione anche sui bilanci pubblici, ma per il momento le politiche di stimolo devono rimanere in vigore. Ultimo tema tra i principali trattati e anche qui preparatorio del vertice dei G20 a Pittsburgh, la lotta ai paradisi fiscali, che è un tema parallelo alle regole necessarie perché non si ripetano certe esagerazioni, certe bolle finanziarie, e quindi anche le regole per i manager che devono sapere gestire il non o controllare il non verificarsi di queste bolle. Paradisi fiscali utilizzatissimi da tutte le società finanziarie che hanno fatto debito a leva usando appunto strumenti derivati e prodotti tossici a man bassa. Il ministro Monti su questo ha in conferenza stampa ribadito che lo scudo fiscale italiano è totalmente in linea con le politiche che sta portando avanti l'Unione Europea in tema di contrasto e lotta ai paradisi fiscali. Io credo che sia assolutamente corretto, cioè dire, se vuoi contrastare i paradisi da una parte devi introdurre regole nuove sul futuro, dall'altra parte deve cercare di svuotare i forzieri, di svuotare, deve cercare di portare a casa. E allora vi chiedo, è più grave stare in un governo in cui i capitali escono o stare in un governo per cui i capitali rientrano? Cioè, reato più grave, fare uscire o fare rientrare i capitali? Io credo che il rientro dei capitali sia, considerando che la destinazione è assolutamente sociale, etica e fondamentale, non ci siano dubbi. Enrico Brivi, anche su questo si sta arrivando a un fronte comune europeo, mi riferisco a lotte, paradisi fiscali e contemporaneo possibilità per di far entrare i capitali attraverso lo scudo? Sì, sappiamo che qui per quanto riguarda la lotta ai paradisi fiscali si sta diffondendo sempre di più anche a livello OCSE, quindi di tutti i paesi insomma interessati al problema, l'impegno a combattere, e ci sono segnali che abbiamo visto emergere da alcuni paesi più tradizionalmente opachi dal punto di vista del segreto bancario, quindi si continua senz'altro su questa linea. Quanto allo scudo fiscale, Tremonti ha ricordato come anche Stati Uniti, Gran Bretagna stiano muovendosi in quel senso, Francia e Germania per il momento sono ancora molto caute, comunque restano misure per il momento a livello nazionale, anche se, come Tremonti ha evidenziato, si muovono insomma su binari che possono essere condivisi dall'Europa e che quindi potranno essere accettati, insomma. Grazie al corrispondente da Bruxelles sulle 24 ore Enrico Brivio, e da Sebastiano Berisoni veramente tutto. Auguro a voi in ascolto una buona serata, ci risentiamo come sempre domani dalle 17 in poi.